Palla Spicchi con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Gigi Borghi in redazione, c'è Peter Bescapè oggi in regia, assente giustificato Flavio Suardi, mentre presente un altro grande ospite dei pomeriggi di Palla Spicchi, è l'architetto o l'ingegnere, come preferito, come preferisce lui, di Cantù, che sta facendo un altro miracolo. Bruno Arrigoni, buongiorno. Buongiorno a tutti. Architetto o ingegnere? Baguette probabilmente. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire, messaggi sms 349 238 6666. Architetto o ingegnere Cantù, 5 su 5, con Roma la squadra più in forma del momento nel nostro campionato. Poi parliamo anche di Milano, di Eurolega, di quello che abbiamo visto ieri sera, di quello che vedremo, visto che abbiamo portato tre squadre alle top 16, ed era anche ora, soprattutto per Milano, che le top 16, che questo livello europeo non lo vedeva da secoli. Però vorrei partire proprio da Cantù, da questo 5 su 5 e da questo faccia a faccia tra Cantù e Roma che ci aspetta. Beh, sì, è un faccia a faccia un po' anomalo, perché sì, noi in comune abbiamo la striscia vincente di 5 partite, quindi chi... A parte Siena, che fa un campionato per conto suo, ecco, poi dopo sono le strisce più lunghe del campionato, chi vince va a 6 e gli altri si fermano lì. Ecco, per noi è una partita ed è un confronto ed è un esame molto importante. Abbiamo fatto delle belle vittorie, anche e specialmente fuori casa, e adesso ci troviamo di fronte con un carico di responsabilità molto pesante ad affrontare una grande squadra. Siamo curiosi anche noi di vedere come reagiremo domenica. Senti, la domanda più banale che posso farti è: ma tu come fai ogni anno a cambiare la squadra e ogni anno a pescare? Poi lo so come fai, perché si chiama semplicemente lavoro e competenza. Ogni anno ricreare questa squadra con i mezzi disponibili e a creare sempre una squadra competitiva. Ma noi siamo fortunati, perché noi adesso veramente in questi ultimi 10 anni abbiamo avuto degli allenatori eccellenti, quindi sono allenatori che sanno plasmare bene i giocatori che gli vengono proposti. Io direi che il segreto di Cantù è un po' un ambiente che metabolizza tutto quanto, e soprattutto le difficoltà degli allenatori, che sono grandi lavoratori, che sanno tirare fuori i meglio giocatori e che li fanno migliorare. Ecco, io ci metto molta, molta passione, pigliamo anche delle belle facciate, però diciamo diventano meno evidenti, perché proprio il nostro è un ambiente che metabolizza tutto quanto, e anche quelli che hanno qualche problema. Ecco, per nostra fortuna non abbiamo mai preso delinquenti, per cui abbiamo potuto vivere delle notti tranquille. Ecco, però io credo che la fortuna di Cantù sia Cantù. Costa Peterson, buongiorno. Ciao ragazzi, ciao Bruno. Grazie per il ragazzo. È vero, coach, la fortuna di Cantù è Cantù, dice Bruno. Bruno è molto modesto nelle cose. Io e altre, quando scrivo su di loro, dicono che lui veramente ha del genio, perché lui ha fatto 2 o 3 cose per Cantù che vanno sottolineate, nel senso che uno ha un ottimo occhio per selezionare i giocatori talenti, 2 un ottimo occhio per scegliere gli allenatori, Sacripanti, Dal Monte, ma soprattutto ha detto lui di plasmare il giocatore in un ambiente, cioè lui fa pochi cambi, prende il parco di giocatore e dice all'allenatore: noi non faremo cambi, non abbiamo budget per farlo, tu devi lavorare con queste qui, e la squadra migliora. Io mi ricordo, penso che è stato l'anno scorso, Cantù sembrava destinata di retrocedere, alla fine l'anno scorso hanno fatto i playoff, o l'anno del Benetton, non mi ricordo, cioè veramente hanno fatto miglioramenti sistematici durante l'anno, perché hanno lavorato con il giocatore, e questo è il grande segreto. Sei d'accordo, Bruno? Sì, noi ogni tanto qualche cambietto lo facciamo anche noi. L'anno scorso ne abbiamo fatti 3 in corsa e sono stati assolutamente determinanti, però eravamo partiti con un budget bassissimo, con una squadra che era veramente debole. L'anno scorso è stato l'unico anno che i 3 cambi in corsa veramente ci hanno cambiato la faccia al campionato. Ecco, vero è che bisogna stare pronti sempre, ecco, sempre attenti. Noi guardiamo il mercato tutto il giorno, tutti i giorni, tutte le squadre, tutti i campionati, tutte le coppe, ci segniamo quelli che potrebbero essere interessanti, ecco, però fondamentalmente ragione Peterson che il poter lavorare su un nucleo forte con l'allenatore bravo sia un po' il segreto di tutto. Siete un po', secondo me, l'Udinese della pallacanestro. Poi approfondiamo il concetto. Coach, sì. Milano intanto ce l'ha fatta a saltare il Foss. Che grande passo che hanno fatto, cioè, hanno vinto su due o tre fronti. Innanzitutto si sono qualificati per il top 16. Lo posso ringraziare i giocatori italiani, Mordente che ha vinto la partita, lui contro Real Madrid, e ovviamente Vitale che ha fatto una partita strepitosa ad Atene contro Panionios. Uno mi può dire Panionios era una squadra debole, non mi interessa niente, l'hanno fatto. E anche una grande notizia per il basket italiano, che manda tre squadre alla top 16. Una volta era scontato quattro squadre italiane top 16, adesso però dopo gli anni magri a mandare tre è già una bella cosa, quindi Milano ha compiuto un grande passo. Senti, cosa, l'unica cosa che mi fa un po' tristezza è la situazione di Massimo Bulleri. Trovo triste anche la gestione di questo giocatore, che è un giocatore importante, che è stato playmaker della nazionale. Insomma, non stiamo qui a rifare la carriera di Bulleri, perché gli appassionati di basket tutti la conoscono. E questo entra a giocare gli ultimi 20 secondi del primo tempo, fa il giocatore tattico, fa il cambio tattico. Insomma, mi intristisce un po' vederlo così. Ma innanzitutto bisogna valutare... prendere Bulleri per quello che è. Quando lui giocava a Treviso, okay, era veramente un grande giocatore, abbiamo visto quello che ha fatto lui anche negli europei, dei 0-3, tanto per citare le cose, è stato veramente determinante, perché lui giocava guardia, veniva dalla panchina, usato molto tatticamente sia da Mike D'Antoni che da Ettore Messina, e è stato beneficiario, diciamo, dei passaggi di Tyus Edney, quindi era una guardia che doveva muovere senza palla. Poi tu metti Bulleri a guardia e passi la palla a lui dal playmaker, lui dopo questo fa anche qualche passaggio determinante, ma se lui deve creare il passaggio determinante dal palleggio come playmaker, non è da lui, lui è un altro tipo di giocatore. Bisogna usare Bulleri come viene usato. Lui mi ricorda, e anche Bruno ricorda benissimo che l'ha nato lui, Franco Boselli. Cioè, Franco Boselli era un giocatore estremamente tattico, bisognava usare lui per quello che lui sapeva fare bene e non per fare le cose. Io non potevo mai chiedere a Franco Boselli a farmi playmaker, ma mai nella vita, perché non era il suo ruolo. Dino Boselli, altro discorso. E Bulleri non può essere chiesto di fare playmaker, non ce la fa. Se viene chiesto di fare guardia, ce la fa. Sei d'accordo, Bruno? E io credo che fondamentalmente sia un problema, diciamo così, umano e psicologico. Cioè, Bulleri è arrivato a Milano 3 anni fa veramente con tutti i crismi del giocatore vincente sul quale si poteva costruire. I risultati, per un motivo o per un altro, non sono stati forse pari alle aspettative. Anche un contratto economicamente estremamente oneroso. Io credo che sia stata una vita dura a Milano per Massimo Bulleri, che è un ragazzo estremamente sensibile, tra parentesi. Ecco, ora lui è in una situazione difficile, ha davanti Vitali, ha davanti Sangaré, si parla di un playmaker americano che io credo che non arriverà mai comunque. Ecco, e quindi è sicuramente in una posizione così defilata. Io penso che il problema vero sia quello di un giocatore che non è riuscito ad esprimersi, non essendo un irresponsabile, perché Massimo è un ragazzo sensibile, bravo, così io credo che patisca e che alla fine tutto questo poi dopo si ripresenta sul campo come i peperoni durante la notte, ecco. E invece Vitali sembra soffrire un po' meno questa pressione, si è beccato i suoi fischi con il Real Madrid e poi ad Atene nella partita della vita, 32 con le percentuali che sapete, e poi ha detto: oggi per me è stata la sagra del maiale, così come la sagra del maiale era stata per Mordente la partita con il Real Madrid. Coach, invece, ho visto che hai partecipato al Superbasket di questa settimana al referendum su Siena, che poi tra l'altro... Siena nasce da una costola di Cantù, come ben sapete, Stonrook, Thornton, che di lì è passato ovviamente, Kaukenas, li ha pescati, il cui presente Bruno Arrigoni. Siena è la squadra più forte di sempre del nostro basket? No. Ancora no, perché anche Bruno è stato a Milano quando c'era Rubini con il Simmental, la Varese quando c'era Gamba e la squadra, poi cioè, quello che manca finora a a Siena, che sta strapassando tutto in campionato, e vincere una Coppa Italia, che non hanno vinto questa squadra ancora, e vincere anche qualcosa a livello europeo. Hanno fatto una Final Four l'anno scorso, però sono capaci di farlo anche quest'anno. Se lo fanno quest'anno, li possiamo mettere assolutamente sì nella classifica delle squadre più forti, non senza dubbio. Squadra evento li chiamiamo noi. Siena non lo è ancora perché manca la dimensione europea. Dimensione europea che magari potrebbe acquistare quest'anno. Non vedo, Bruno, non vedo in Eurolega la corazzata trita tutto, nemmeno il CSKA, nemmeno il Panathinaikos, nemmeno l'Olympiakos. Sono squadre che si stanno probabilmente anche hanno programmato la stagione per arrivare, diciamo così, al 100% della condizione. In fondo hanno cambiato tutte moltissimo, perché anche Messina aveva i suoi pretoriani e quest'anno qualcuno non ce l'ha più, li ha cambiati, e non è detto che uno diventi subito pretoriano, ecco, e ci vuole il suo tempo. Io credo che le squadre più forti verranno fuori in fondo. Siena ha la forza, questo zoccolo duro di questa coesione veramente da falange macedone che è venuta costruendosi durante questi anni. Potrebbe essere, che tocchino tutto quello che vogliono, potrebbe essere davvero l'anno buono. Però non c'è la corazzata. Io mi ricordo che nel 73, quando non è stato, io Gamba e io siamo andati a Varese, la Ignis aveva vinto la Coppa Intercontinentale a settembre, aveva vinto la Coppa Europa, aveva vinto col Simmet lo spareggio a Bologna, e poi c'erano le finali di Coppa Italia. Ha detto vabbè, questi qui la lasceranno lì. No, hanno vinto anche quella, veramente. Quindi quando si parla di cannibalizzare, noi pensiamo alla Ignis di Nicolic e diciamo bah, vediamo. Pensiamo alla Ignis di Nicolic, pensiamo anche la Milano di Cos Peterson, che pure era piuttosto ingorda in fatto di trofei, perché in alcune edizioni avete fatto grande slam, no coach? Sì, io ho fatto uno solo, Nicolas ne ha fatto due, ma sì, noi abbiamo vinto 3 scudetti in fila in 3 anni, 3 scudetti, 2 Coppa Italia, una Coppa Corris e una Coppa di Campione. Questo è, diciamo, un periodo di 3 anni è abbastanza convincente, soprattutto è successo durante l'epoca dei playoff e di una Coppa Italia con una formula un po' diversa, anche una Coppa di Campione un po' diversa. Quindi è stata un'impresa, assolutamente. Avevamo la squadra: Meneghin, McAdoo, D'Antoni, Premier, Gallinari, Boselli, Barviera, Barnia, Pitis, e avevamo i giocatori e giocavano da squadra tutto lì, come sta facendo Siena adesso. Siena mi fa una grande impressione, cioè, quando ho detto prima che bisogna fare qualcosa a livello di Coppa Italia e a livello di Eurolega, non era una cosa negativa, dico, loro possono farcela assolutamente. Sì, anche se il livello delle altre, il livello della concorrenza per la tua Milano era diverso rispetto a quello che adesso trova Siena in campionato. Io non so cosa ne pensa Bruno, ma tu prendi qualsiasi squadra di 20 anni fa, del mio ultimo anno come allenatore, l'86-87, tu prendi Bologna, Virtus con Vilalta, Bruno Monti, buon amico, e gli stranieri, tu prendi Pesaro con Magnifico, Costa e Gracias e gli stranieri, tu prendi Milano, la mia Milano con D'Antoni, Premier, Meneghin e gli stranieri, tu prendi Torino, vai avanti così, Roma con Solfrini, con Polizello e con Gilardi, tu vai avanti così. Cioè, queste sono squadre che si giocano nel campionato oggi, tutte queste squadre qui fanno più o meno quello che vogliono, perché erano più forti, gli italiani erano più forti, anche se adesso è inutile dire questo perché Bargnani, Bellinelli, Gallinari non ci sono qui per rendere parco dei giocatori italiani forti, però le squadre di 20 anni fa erano ben attrezzate, e se uno pensa che anche giocando come 20 anni fa non vincerebbero oggi, non sa di che cosa stanno parlando. Questo è un tema scottante, poi lo affrontiamo con Bruno Arrigoni. Ma prima di salutare Cos Peterson, Bargnani è esploso, coach? Sembra di sì, ma guarda, Big Bang? Ma sai perché? Perché uno, fuori Germain O'Neill con infortunio e dovrebbe rientrare questa sera. Bargnani, dovendo giocare in un ruolo fisso che era 5, il pivot, e sapendo di non fare un po' di 3, un po' di 4, un po' di 5, tu sei un 5, punto e basta, giochi pivot, fai la tua partita. Sapeva di giocare 30-35 minuti senza essere tolto al primo sbaglio, ovviamente è successo quello che è successo. Negli ultimi 10 partite più o meno 22-23 punti di media, 7 oltre rimbalzi di media, anche qualche assist, eccetera. Sì, lui è esploso e non credo che torni indietro. Anzi, se io sono nelle posizioni dei grandi Maurizio Gherardini e Brian Colangelo, io la questione di Jermaine O'Neal mi è spinosa adesso. Io ci penserei di fare un po' di mercato. Dicono che Miami sarebbe interessata a scambiare Sean Marion per Jermaine O'Neal. Se io sono Brian Colangelo, Maurizio Gherardini, accompagno Jermaine O'Neal a Miami International Airport, impacchettata e infiocchettata. Questa è la mia idea. Grazie Cos, buon lavoro, ci sentiamo ciao, venerdì. Ragazzi, ciao Dan. Ciao. Palla spicchi. E io sapevo, adesso spunta la Virtus di Ginobili, Iari Cerigadò, dove la mettete? È stata l'ultima a fare il grande slam. È chiaro che i confronti epocali si sprecano, così com'è chiaro il discorso di prima, no? Bruno Arrigoni naturalmente con noi. Stanno arrivando anche gli ascoltatori, 800 24 00 24, numero verde, e anche un sacco di sms, 349 238 6666. Parliamo un po' di tutto, però confronti epocali difficili, però è chiaro molto che... molto difficili. È chiaro che insomma anni 80-90 la concorrenza era di livello più elevato per i dominatori. Sicuramente, perché c'erano giocatori italiani buoni, giocatori italiani divisi tra le squadre. Adesso ormai i giocatori italiani sono come l'aria calda e vanno nelle squadre alte, e nelle squadre basse non ci rimane niente. Ecco, per cui il livello tecnico dei giocatori italiani forse era un po' più alto. Era, e dopo possiamo aprire un tavolo di lavoro infinito. Sì. Possiamo aprire. I giocatori stranieri erano probabilmente molto più qualificati, perché c'era il problema delle prime scelte, che se non gradivano la loro destinazione potevano venire in Europa e liberarsi dai diritti della squadra che li aveva scelti. Poi c'erano molte meno squadre NBA, per cui giocatori molto più importanti venivano in Italia, giocatori americani molto più forti. C'erano il college, erano di un livello tecnico estremamente più alto, perché c'era un lavoro tecnico molto più approfondito con i grandi allenatori del tempo. Adesso sono 30 squadre NBA, ci sono 12, 14, 6 qualche sono squadre di league, che sono, diciamo, in ci sono alcuni giocatori per qualche anno in parcheggio in attesa di vedere se potranno, certo, mai andare di là. Il livello tecnico dei college è molto sceso, per cui i giocatori che escono dal college sono giocatori tecnicamente poco acculturati, e i giocatori italiani probabilmente con l'avvento del professionismo e con la disattenzione dei club nei confronti dei vivai, ecco, forse non sono a livello dei nomi che aveva citato prima Dan Peterson. Che sarebbe fare una squadra di italiani a Cantù, riportare un po' di italiani a Cantù, non è facile costruire un nocciolo di italiani a Cantù. Tutti ricordiamo la Cantù, no? Che è stata, sì, è vero, però era una cosa estremamente, proprio completamente differente. Come diceva mio maestro elementare, come mettere insieme le mele con le pere, non si possono sommare. Erano tempi completamente differenti. Ora, il problema degli italiani, secondo me, prima di tutto sicuramente non c'è più l'attenzione tecnica ed economica per quello che riguarda i vivai. Una volta si spendevano centinaia di milioni per andare a prendere dei giovani, per tirarseli su, per farli giocare. C'era il cartellino, uno poteva venderlo e poi rimpolparsi e spenderli ancora per rimettere in circolo questi soldi. Ora i giocatori che uno prende li tira su, se anche sono suoi, poi dopo 22 anni prendono, se ne vanno, se uno ce n'è uno veramente buono, e quindi non se lo può godere a fronte di un parametro annuale assolutamente ridicolo di quello, ecco. Per cui è estremamente difficile. Se anche uno avesse la voglia di mettersi lì, tirare fuori i giocatori, prima di tutto se li perde quelli buoni, sì, e gli rimangono quelli scarsi. Non ha nessun tornaconto economico, perché col fatto che il cartellino non c'è più e quindi chi te lo fa fare? E quindi chi lo fa fare? Ecco, per cui è una cosa estremamente difficile. Però invece, secondo me, la cosa veramente importante oggi è ricostruire veramente un humus di giocatori italiani, e dal punto di vista numerico e dal punto di vista qualitativo. Punto di vista numerico, per avere un numero doppio di giocatori italiani disponibili e avere un mercato dei giocatori italiani, e investire forte sugli allenatori per migliorare anche la qualità di questi giocatori. Invece oggi molto spesso gli allenatori giovanili sono gente che lo fa, diciamo, nei ritagli dei ritagli del suo tempo per arrotondare e non ne fa la sua attività, attività principale, fondamentale e professionale. Oggi non c'è un mercato dei giocatori italiani. Io ricevo, non so, tutti i giorni 50 email che mi vengono proposti, vabbè, 5.000 americani, 500 lituani, 100 serbi, sì, è così. Però invece il mercato dei giocatori italiani non c'è, è un mercato in piena occupazione. Sì, per sì. cui se uno deve sostituire un giocatore italiano o deve per qualche motivo fare qualcosa con un italiano, non, non c'è un mercato. Ci vorrebbe un numero doppio di giocatori. In questo momento non ci sono. Non esiste. C'è Roberto da Roma, primo ascoltatore di oggi, e magari vuole, vuole iniziare la partita con Cantù, visto che c'è qui Bruno Arrigoni. Siamo allo stretching, siamo. Poi c'è, c'è Gigi Borghi che mi segnala giustamente una giornata importante, 15 gennaio, ma del 1892, James Naismith pubblica Le regole del basket, è la nascita ufficiale di questo sport. Le regole in origine erano 13. La prima: the ball may be thrown in any direction with one or both hands. Questa è la prima regola scritta da Naismith. Il basket è nato oggi, compleanno, nel 1892. A Roberto da Roma si è aggiunto Alberto da Varese. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Senti, no, volevo parlare riguardo la partita di ieri dall'automatica. Sì. Volevo chiedervi perché si è complicata la vita, perché su 20 secondi della fine non l'ha fatta segnare, così perdeva i due e vabbè, tutti contenti. Perché rischia spaventare quando era anche a meno 7 spaventare? Me lo sono domandato anch'io guardando la partita. Ah. Me lo sono domandato anch'io senza trovare grandi risposte, perché lì era una questione di differenza canestri che poi Roma è riuscita lo stesso a difendere, ma con grande fatica nel supplementare, tanto che in telecronaca Franco Casalini ha detto: ma il dubbio che mi viene è questo. Perché Bruno non ha... Ma perché gli allenatori piace vincere e non gli lasciano lì niente, perché se uno ha così nel sangue quel momento lì gli gira che vuole andare là e vincere, non vuole andare là a far pari. Ecco, se io penso che, non so, agli inizi della Coppa dei Campioni ci fu il famoso canestro di Hightower del Real Madrid a Varese per non andare ai supplementari, in modo che Varese non potesse ribaltare a differenza canestri, tanto è vero che dopo la FIBA tirò via questa sì. possibilità. Ecco, e quindi io credo che Gentili in quel momento lì voleva vincere la partita, e i giocatori probabilmente volevano vincere la partita e non gli bastava, e dopodiché hanno rischiato grosso, ecco, in effetti. Hanno rischiato grosso perché sono andati anche sotto la soglia degli 8 punti da difendere per un secondo posto che è platonico finché vuoi, però Roma insomma è una cosa importante, ha fatto una bella coppa. Ha fatto una grande coppa, soprattutto un grande girone d'andata, e poi ha difeso il risultato nel girone di ritorno. Comunque così come Milano ha fatto invece un pessimo girone d'andata, un girone di ritorno da favola. Quindi il mistero rimane secondo Bruno Arrigoni, ma anche secondo me, perché Roma voleva vincere la partita. A torto, a ragione, parliamone, insomma. Alberto da Varese, buongiorno. Buongiorno a lei. Prego. Io volevo dire che secondo me il problema oggi del basket in Italia è stato dato dalla legge Bosman. Io sono di Varese e a Varese, come a Cantù e in altre piccole città, il vivaio è sempre stata la cosa fondamentale delle squadre. Tutti i ragazzi a Varese hanno sempre giocato a pallacanestro. Adesso c'è un po' di disaffezione, perché sì. con tutti questi stranieri, con meno persone del posto di Varese o comunque dei settori giovanili, la pallacanestro ha perso tanto. C'è meno riconoscibilità, lei dice. Meno identificazione nella squadra. Meno identificazione, e poi ci sono meno ragazzi che escono dal settore giovanile. Cioè, a Varese, vari Vescovi, Caneva, Zanatta, Meneghine, tutti i vari nomi, io compreso che ho giocato un po', siamo tutti usciti dal settore giovanile. A Varese qualsiasi ragazzo giocava a scuola, nel campetto dell'oratorio. Adesso non è più così, si pensa anche a Varese a giocare a calcio, i ragazzi di 13-14 anni, e la pallacanestro è un po' messa in secondo piano, perché tanto alla fine le società prendono i giocatori stranieri che costano meno, che vengono. Da che già paesi. Mi sembra una buona ragione, ecco. Vero Bruno? Mi sembra già una buona ragione, che uno costa di meno mi sembra già una buona ragione. Ho capito, perché però anche alla fine bisogna fare i conti anche. Un po' quello che no, ma è giusto, è giusto ed è vero. Io credo che ci sia una disaffezione generale per lo sport. Cioè, prima di andare nella pallacanestro, bisogna pensare che oggi i ragazzi, quando hanno 15 anni, hanno un ventaglio di possibilità e di interessi. Bruno, scusami, devo rispettare i tempi, questo è un discorso importantissimo da fare, e con calma. Palla spicchi. Ecco, torniamo sempre con noi Bruno Arrigoni, general manager di Cantù, squadra attualmente in on fire, in striscia, 5 vittorie consecutive. La prossima se la gioca con Roma, che ha l'identico ruolino di marcia nelle ultime gare. 800 24 00 24, numero verde, c'è già anche Marco da Parma. 349-238-6666 per i messaggi. Stavamo facendo un discorso molto profondo innescato da Alberto, ascoltatore di Varese, che parlava di affezione o disaffezione, meglio, dei giovani nei confronti della pallacanestro, secondo Alberto, portata dall'invasione degli stranieri. Un discorso un po' più profondo, forse, Bruno. Sì, è un discorso veramente che va lontano, ecco, e c'è una disaffezione generale dei giovani nei confronti dello sport, ecco, c'è una difficoltà dei giovani per entrare in un ambito lavorativo. Per cui, secondo me, questo qui sarebbe il momento di provare a vedere se uno riesce a giocare bene a calcio, a pallavolo, a pallacanestro, visto che poi più che un call center non gli viene offerto. Cioè, uno magari gioca bene a pallacanestro, porta a casa i soldi e si diverte di più. Ecco, per cui sarebbe questo il momento per i giovani di buttarsi e di impegnarsi al 100% di energie proprio mentali, fisiche, dedicare tempo per diventare dei bravi giocatori di qualche cosa. Sì, sì, sì, è il momento giusto, manca secondo me la passione, giovani distratti da mille cose, manca la passione per lo sport, l'impressione per lo sport praticato sul serio, però sarebbe il momento giusto, perché come si diceva con Bruno, il mercato degli italiani praticamente non esiste. Alberto diceva, prendo un americano che magari ti costa di meno, è già una buona ragione, ha detto Bruno Arrigoni, perché è così. Stavamo dicendo prima, microfoni spenti, tu tra uno straniero e un italiano, l'italiano a parità di valore ti costa il doppio o il triplo, tu chi prendi? Sì, ma al di là di questo fatto, che magari uno può avere anche piacere di avere, ed è, credo che sia molto importante, credo che sia vero, uno può avere piacere di avere dei giocatori italiani, però come dicevamo prima, non abbiamo un mercato dei giocatori italiani. Facevamo un esempio molto banale, facendo nomi e cognomi. Noi abbiamo un americano uscito dal college, si chiama Jason Rich, che è un grandissimo atleta, buon giocatore, non ancora acculturato al 100%, forse per un campionato così importante come il nostro, però con grandi doti atletiche. Dall'altra parte noi abbiamo un giocatore come Daniele Cenciarini, che è il giocatore che è la guardia, che gioca ad Avellino, che è un giocatore più o meno nello stesso ruolo, stesso tipologia di giocatore, che ha una cultura cestistica assolutamente superiore, probabilmente. Ora, il problema è questo, che se io per qualche motivo devo venire a cambiare Jason Rich, io mi rivolgo, pur con tutti i paletti e le difficoltà che trovo di finestre, numero di visti e compagnia cantante, per cui altro che lo slalom speciale, però io mi rivolgo ad un mercato americano, un mercato europeo, io ho 100 Jason Rich, ecco, che posso prendere. Se Daniele Cenciarini domani scappa con gli Hare Krishna, io voglio vedere che cosa possono fare per sostituirlo, sì, perché sì, non c'è un altro Daniele Cenciarini. Invece dovrebbe essere un mercato dove al quale uno potesse attingere, ecco, perché il mercato degli italiani è un mercato di piena occupazione, nel quale quindi i costi salgono per forza, ecco, visto che qui siamo nella radio della Confindustria, sì, ecco, quindi il mercato di piena occupazione, i costi salgono per forza, e poi non c'è modo di non c'è mercato, non c'è mobilità, non ci sono giocatori sostitutivi, ecco, certo. Questo che io dico, bisogna raddoppiare il numero e alzare la qualità. Raddoppia il numero con iniziative importanti, alzare la qualità con un lavoro molto più profondo sugli allenatori. Adesso andiamo a Marco da Parma, e poi voglio chiedere, già anticipo la domanda, Bruno Arrigoni, che cosa prova nel vedere i suoi che vincono gli scudetti. Stonruk Kaukenas, tanto per cominciare, Siena nasce appunto da una costola di Cantù e dal lavoro fatto da Bruno Arrigoni nella caccia ai giocatori. Però prima sentiamo Marco da Parma, buongiorno Marco. Buongiorno a voi, stavo ascoltando la radio, sentivo questo problema sollevato dall'ascoltatore di prima. sicuramente è un risultato finale, però non è legato sicuramente agli stranieri. Il problema è che probabilmente la società sta cambiando e se mentre prima le massaie, le donne di solito erano a casa, i bambini giocavano in cortile, avevano dei punti di riferimento in mezzo alla strada, all'oratorio, nel campo di pallone, adesso ormai le famiglie stanno cambiando, i genitori lavorano giorno e notte, sì. I figli hanno tantissime cose da fare, soprattutto nella scuola. Io andavo a scuola fino a mezzo, fino certo, all'una, certo. Mio figlio fino alle 4:30 poi ha da fare dei compiti. Poi c'è il computer, c'è la PlayStation, certo, c'è la televisione. È verissimo, e Marco. Si sono perse anche questo piacere di stare insieme, perché mio figlio non ha amici, io avevo un paese intero. Sì, è verissimo. Quindi non c'è più anche il tessuto per il calcio, penso per tantissimi sport, non solo per il basket. Sì, no, è verissimo. Quello che lei dice è verissimo. Anche se, non lo so, da genitore io penso che lo sport debba essere, non dico importante come la scuola, ma venire subito dopo, perché è qualcosa di, soprattutto gli sport di squadra, di formativo ai massimi livelli per un bambino, più del rimbecillirsi davanti ai giochini o al computer, eccetera. Però, insomma, qui stiamo facendo discorsi sociali e sociologici che certamente non ci competono. Però Marco ha ragione da vendere. Andiamo a Pesaro, Bruno? Giorgio da Pesaro? Andiamo a Pesaro. Attento, perché Cantù, come sapete, ha fatto il colpo a Pesaro domenica. Giorgio? Sì, pronto, complimenti comunque. Hanno giocato veramente bene. Porca la bestia, grazie. Io sono sportivo e volevo proprio chiedere al signor Arrigoni un commento sulla scelta tecnica del nostro allenatore, un loro ex, no? Sacripanti, no? Sì. Secondo me Sierstina ha fatto un break dove non ha tenuto in campo un play, no? Non è un fenomeno Stanic, però è un play che si è andato all'orgoglio e quanto l'ha tirato fuori, ha fatto anche due tre bei gesti da tre, quindi mi è piaciuto. Però lui si ostina a far giocare la squadra ogni tanto senza il play, che secondo me le regole del basket sono il play è il numero uno, poi tutti gli altri, ma il play è il play, è il direttore, è il maestro d'orchestra. Ecco, in quella circostanza poi loro hanno preso un break, poi noi l'abbiamo sentito molto, sono tirato le gambe. E l'ha ripetuto perché anche Avellino ha giocato così, ho visto la partita di Avellino e l'abbiamo persa perché ha fatto. Non riesco a capirlo. Cioè io penso che se la giustificazione è quella che il nostro play non ha magari i numeri di calcio sufficienti nelle mani, allora sicuramente lo capisco. Ma però allora bisogna cambiarlo, perché giocarsi a play significa buttare via le partite, ecco. Ormai. Grazie Giorgio. Maxi Stanic, giocatore che a me piace, non è. Ma Stanic a Pavia vi ha portati a un passo dalla 1 con un campionato strepitoso. Ma io adesso non voglio difendere Sacripanti perché non ha bisogno di difensori d'ufficio. Ecco, domenica Stanic è stata una partita di grande orgoglio, di grande dispendio di energie fisiche, perché veramente ci ha messo in difficoltà pressando Sandiata Gaines fino alla rimessa, cercando di non fargli pigliare la palla, standogli addosso. Veramente ha avuto un dispendio di energie fisiche e mentali veramente importantissimo. Ecco, Ramil Curry è un giocatore che è un 2 che può fare l'1, l'ha fatto in carriera. Noi l'anno scorso ci ricordiamo che abbiamo girato la faccia al campionato quando abbiamo preso in guardia, abbiamo preso Gerald Fitch, che era un personaggio un po' particolare, un giocatore di altissimo livello tecnico, e quando si sedeva Deshaun Wood, che secondo me è stato uno dei tre migliori playmaker dell'anno scorso nel nostro campionato, portava lui la palla pur non essendo del ruolo, diciamo, per cui io dico che insomma Sacripanti ha fatto quello che pensava giusto di fare con l'organico che aveva a disposizione. Loro hanno fuori Van Rossum, Nardi è arrivato adesso, ecco, probabilmente non è ancora inserito al 100%, e così io non credo che loro abbiano patito questo problema. Ecco, loro hanno patito il fatto che l'inizio della partita è stato assolutamente, sono scesi in campo un po' addormentati all'inizio, dopo ha rimesso la partita in piedi in maniera molto energica e vigorosa, è stata una partita punto a punto per tutta la partita, alla fine noi abbiamo fatto due magie e allora non sono riuscite, la partita si è chiusa così. Palla spicchi. Scusa, quando vedi Siena, Bruno, cosa provi con tutti i tuoi in campo? Soddisfazione o dici però se rimane un No, sicuramente soddisfazione. Io, è chiaro che noi quando un giocatore è molto bravo sappiamo, cioè, o dimostra di essere molto bravo, sappiamo che è lì di passaggio. Ecco, io sono felice che i nostri giocatori vengano apprezzati, ecco, dagli altri. Noi abbiamo cambiato così tanti questi 10 anni che abbiamo pieno le squadre. L'altra sera c'erano Morandé e Robin Wilson che giocavano nella Nancy contro Siena, e sono un sacco di nostri ex giocatori, però i giocatori girano. Ecco, io sono molto affezionato a tutti i nostri giocatori. Ecco, ricordo forse più con piacere quelli un po' storti, ecco, quelli che non hanno avuto fortuna, e sono forse più affezionato specialmente se erano bravi ragazzi, ecco, di quelli che poi hanno fatto una grande carriera. Ogni volta che vedo Thornton e Stone gli dico: ma senti, ma la mia percentuale allora quando arriva? Stone come ha detto, e alla fine della carriera facciamo tutto un conto. Ha detto, va bene, allora aspettiamo. Dunque abbiamo Stefano Provincia di Modena, poi Luca da Parma, come al solito tanti ascoltatori che vogliono parlare con noi. Stefano, buongiorno. Salve. Dica. Io non ho potuto ascoltare la trasmissione dall'inizio, sì. Però vi ascolto sempre, specialmente al venerdì quando parlate di basket. Benissimo. Ma mentre ero in macchina ho sentito un attimo che parlavate del fatto che i giovani si devono impegnare di più nello sport. Questo mi era sembrato che fosse l'argomento. Uno degli, sì. Ma però ogni tanto queste cose le sento. Io abito in un paese di provincia piccolo dove non ci sono grandi strutture, ma mio figlio, di quando dico si è malato di pallacanestro, perché è successo quando aveva 12 anni, adesso lui vive di pallacanestro, cioè il suo argomento principale è quello. Ma le società, specialmente le società dei piccoli paesi, siccome sembrava che avesse qualche qualità, abbiamo cercato di andare fuori, anche se era impegnativo sia dal punto di vista economico che per lo spostamento, per la perdita di tempo. Ma le società, appena c'è qualcuno che un attimino si stacca un po' dalla media, gli impediscono con la questione del cartellino di muoversi. Ho dovuto litigare per 2 anni per riuscire a spostarlo in un paese più vicino dove insomma la scuola era un po' più adeguata, diciamo. È difficilissimo. Questi sono problemi non di oggi e non dovuti all'epoca, sono problemi che sono un po' sempre esistiti, no? Quelle del cartellino, del portare il giocatore da un'altra parte, eccetera. Quindi non sono problemi attuali. I problemi attuali sono, come dicevamo prima, forse la voglia un po' inferiore di sacrificarsi per lo sport e per farlo sul serio, perché è inutile star lì. Per fare sport sul serio ci vuole passione, ci vuole sacrificio. Luca da Parma, Paolo da Bologna, poi aspettiamo un altro ospite, abbiamo 11 minuti ancora per stare insieme. Luca, salve. Pronto? No, anzi 9 minuti, quindi meno, rapidità ragazzi. Luca, buongiorno. Pronto, buongiorno a tutti, sono Luca da Parma, sono un vecchio amico di Bruno dai tempi della County di Milano. Porca. Lo saluto. Ah, bene. E volevo da lui un parere sull'attuale crisi del basket femminile, soprattutto del basket di alto livello, perché a livello giovanile abbiamo ancora i risultati, direi, di prestigio. Guarda l'ultimo europeo under 16, dove le nostre ragazze hanno figurato molto bene, sono andate seconde, ma a livello di basket proprio di Serie A e di Eurolega, per esempio, abbiamo problemi veramente grossi. So che lui è un grande esperto di basket femminile, e volevo da lui un conforto e un parere. Ha vinto scudetti e coppe Bruno Arrigoni nel campo femminile. Io seguo la pallacanestro femminile, ecco, e chiaramente è un momento molto difficile. Io guardo spesso le partite a lunedì che danno su RaiSat, ecco, e lì, a parte qualcuno, il livello tecnico è più che accettabile, le straniere sono brave, sono alcune italiane buone. Non è riuscito a sfondare, anche perché la concorrenza della pallavolo è altissima. Io credo che adesso la diciamo, la federazione ha fatto qualche cosa, perché ha organizzato gli europei in Italia 2 anni fa, con il progetto Azzurrina, segue le giovani regione per regione, insomma sta cercando di fare qualche cosa, sicuramente sta cercando. Quello che manca veramente è un sostrato delle piccole società, diciamo così, sul territorio, come si usa dire adesso, che facciano l'attività di base. Ecco, sono veramente poche le società che fanno pallacanestro femminile, e io credo che forse perché c'è poca domanda da parte delle ragazze. Ecco, una volta era più facile, adesso se uno deve portare la sua ragazzina a giocare a pallacanestro deve fare 40 km, 50 km, perché altrimenti non trova una società, certo, ad hoc preparata. Questo è un problema grosso, io lo seguo da lontano, sono contento che vada bene il JS di Roberto Galli, che è un amico, è un mio giocatore, io seguo il pallacanestro femminile e mi dispiace che sia in difficoltà. Ecco, però ci vuole proprio una spallata forte a livello di base. Paolo Bologna, buongiorno. Buongiorno, volevo innanzitutto, io sono di Bologna, sono tifoso della Virtus da sempre, sì? E volevo fare una domanda al signor Rigoni, che è una notazione a voi. Sì. Una domanda al signor Rigoni, cosa ne pensa delle potenzialità della Virtus Bologna? Sì. E a voi volevo farvi la notazione che venerdì scorso avete dato Luca Vitali come del vivaio di Siena e invece del vivaio della Virtus Bologna. Come possibile? No, ma lo sappiamo da dove viene Luca Vitali, sarà stato un lapsus, Paolo, ha girato anche per Siena, ha girato anche per Siena, ma arriva da Vivaio Bolognese, Bologna, la Virtus, certo. Ci scusiamo se l'abbiamo detto, non me ne sono accorto, non so se l'ho detto io o qualcun altro che c'era qui, però sulla Virtus, sicuramente oggi insieme a Roma è una delle squadre così che sono le vallette di Siena. Ecco, mi sembrano in questo momento che Matteo Bonicioli stia facendo un lavoro tecnico estremamente ardito, estremamente originale, cioè quello di spostare Ford nel 4, Giovannoni nel 3, cioè, in questa ottica Tani e Vecchiana, di avere playmaker di 2 metri e di lì a salire. Ecco, e sicuramente questa è un'operazione tecnica che è veramente interessante e che ci incuriosisce. Lui ci prova, a Matteo è uno a cui piace rischiare, a cui uno piace giocare grosso, ecco, e la Virtus però ha il potenziale per essere alla fine insieme a Roma l'anti-Siena. Se mai esisterà un antisiena. Se mai esisterà l'antisiena. Dunque, io ho l'onore di essere amico, ma credo anche tu, di Marco Caramai, che ieri ha vinto un premio bellissimo, secondo me. Sì, l'altro pallone, cioè il 12ª edizione, premio alternativo, questa definizione è bellissima, premio alternativo al pallone d'oro e contro il pallone duro. Io credo che mai questo premio sia finito in mani così meritevoli. Marco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, saluto Bruno. Marco, che piacere, complimenti. Anche per me. Grazie. Ma è un premio per tutto il basket questo, dai. No, tu sei bravo, ci stai. Come tutti sapete, se non lo sapete ve lo raccontiamo tutte le volte che serve, fino a quando non lo saprete tutti, Marco Caramai ha fatto e sta facendo da 14 anni, Marco? 14. Da 14 anni un lavoro straordinario, usando il basket per risolvere problemi molto più profondi e molto più alti. A che punto siamo con questo lavoro, Marco? Punto molto bello, no? In questi ultimi anni, tra la partecipazione al torneo degli oratori con la squadra mista normodotata e 2 disabili vincendo le partite, l'allargamento dei centri, abbiamo oggi 16 centri in Italia, 3 sono vicini a voi, Cologno Montese a Pavia con l'Annabella Special Team e con il velocifero Dream Team di Milano che ha il logo Armani e che prossimamente a maggio ci sarà anche un torneo a Milano. Roma, abbiamo chiaramente Bologna, Modena, Rimini, insomma 16 centri e questo insomma un allargamento di un metodo, ormai è arrivato a quasi 500 ragazzi che lo praticano e poi anche il libro che ho scritto, Uno sguardo verso l'alto, insomma credo che dia una linea, un metodo di lavoro anche per chi voglia portare avanti questo discorso. Bruno, il metodo Caramai è una rivoluzione. Sì, io lo seguo, ho visto in televisione i suoi ragazzi, ecco, prodursi sul campo, ecco, è veramente una cosa, tanto che strappa il cuore, nel tempo ti riempie di gioia, perché è qualcuno che si pone, ecco, rimboccandosi le maniche, realmente a disposizione di questi ragazzi, che non sono stati proprio fortunatissimi, ecco. E il modo di il fatto di poter con la palla, ecco, aiutare a risolvere qualche problema. La palla, ecco, è comunicazione, la palla è magia, ecco, quindi questo è veramente una cosa molto bella, e ci fa sentire, cioè, noi ci fa sentire veramente degli esseri piccoli e inutili, ecco, ci fa sentire, però chiaramente è una cosa estremamente bella e commovente. Poi nel giorno, nel compleanno del basket, oggi lo ricordiamo, 15 gennaio di moltissimi anni fa. Marco, per chiudere, potessi risolvere con questo premio un problema, quello che più ti sta a cuore, qual è in questo momento? Beh, guarda, lascio stare il nostro ambito, perché siamo già, parlo del basket con ragazzi disabili, sta andando già molto bene e sono contento così. Vorrei che ma ce la fate? Premio... Ce la fate? Ecco. Le risorse sono sufficienti? I centri sono sufficienti? Non sono mai sufficienti, però insomma, questi nomi come Annabella, come Milbanca, come Armani, che si stanno avvicinando, appesero la Scavo Spari, insomma, piccole cose che però... piccole nel senso, nomi grandi ma interventi piccoli ancora, però insomma importanti, ci aiutano molto. Federazione Lega ci danno una mano. Io ti dico, spero davvero che questo premio, che continuo a pensare come un premio alla bellezza della pallacanestro, uno sport unico, sia un inizio, e ci credo, un inizio di una riconciliazione, di un riavvicinamento tra posizione di Lega, Federazione, CONI, per un basket italiano che davvero torni a primeggiare come qualità, comunione di intenti e come collaborazione. Ieri c'era Pozzecco, è stato un testimone al vincente, anche ieri naturalmente, l'organizzazione. C'erano i messaggi di Meneghin e Recalcati che non potevano intervenire, c'era Lagnolini, presidente della Federazione della Lombardia, del basket, insomma, delle testimonianze importanti. Ecco, che dietro questo premio ci sia un'unione di intenti e una collaborazione che riparta da ieri. Buon lavoro Marco, grazie. Marco, ciao. Grazie a voi della vostra attenzione. Grazie a Marco Calamai, che aspettiamo prestissimo qui nei nostri studi. Bruno, per chiudere, in bocca al lupo per domenica contro Roma. Noi speriamo di fare, ripeto, non voglio essere banale, vogliamo fare una buona partita, perché è un confronto che ci eccita, noi cercheremo di scontrarci da pari a pari con una squadra che ha un potenziale tecnico e fisico sicuramente superiore al nostro, però a casa nostra noi siamo anche abituati a fare qualche piccolo miracolo ogni tanto. Qualche piccolo miracolo ogni tanto. Grazie Bruno. Grazie a voi dell'attenzione, davvero. Grazie a Bruno Arrigoni, in bocca al lupo. Grazie a Gigi Borghi per il lavoro in redazione, a Peter Bescapè in regia. Con lo sport torniamo domani pomeriggio alle 17. Buona giornata a tutti.